Talk, Sputnik on Radio. Del Capo, Radio Metropolitana 94.7 96.250. Siamo su Moontalk con Chiara e Marta e stasera, cioè mercoledì 7 aprile, parleremo della Warp, che è un'etichetta indipendente inglese che raccoglie cose molto interessanti da un po' di anni, da più o meno 15 anni se non sbaglio. La Warp è nata nel 1989 a Sheffield, creata da Steve Beckett e Rob Mitchell. Quindi l'anno scorso si è registrato il... stato il ventennale. Il ventennale, ok, bravissima. E quindi passeremo subito a una nuova uscita per la Warp, Gonja Sufi, che esce con A Sufi and a Killer. Gonja Sufi è lo pseudonimo di Sumanj Valentine, cioè un predicatore yoga, un filosofo, un ex rapper che appunto riesce a combinare sia il mashup che forme più dub e post-hop, e con dei campionamenti molto interessanti esce con appunto A Sufi and a Killer. Andiamo a sentire Cowboys and Indians. Cowboys and Indians, real cowboys. Questo era Gonja Sufi con A Sufi and a Killer. Cowboys and Indians da A Sufi and the Killer, una nuova uscita per la Warp, una uscita appunto del 2010. Siete su Moon Talk e stiamo parlando appunto della Warp, etichetta inglese. Etichetta inglese. Invece, se volete trovare le nostre vecchie puntate, potete farlo andando nel nostro blog www.moontalkradio.blogspot.com. Se invece volete scriverci, potete farlo a moontalkradio@gmail.com. E a proposito di artisti di nuove uscite per Warp, vi parlerei di Bibio. Bibio è un music producer inglese, approdato in Warp quest'anno. Prima invece registrava per l'etichetta indipendente Mash Records. È un po' riduttivo etichettarlo in un unico genere, che comunque sarebbe quello del folktronica. Perché infatti è riduttivo perché nel suo disco si trovano sia chitarre acustiche, sia rock, sia hip hop. La canzone che vi faccio sentire invece è abbastanza folktronica e ci sono anche i coretti alla Beach Boys, abbastanza tipici del movimento. Ci sentiamo quindi la canzone, non la trovo, Jealous of Roses, contenuta nell'album Ambivalence Avenue. You may not about the people who walk past your window, out and out. You'll be so jealous how the roses they grow in the garden of the house where nobody lives. You'll even see the there's a tower of days. Questo era Bibio. Prima si diceva dei coretti alla Beach Boys e della folkatronica. A proposito di questo movimento, di cui prima ho anche citato i Grizzly Bear, proprio questi ultimi hanno prodotto due dischi per la Warp, il primo disco Yellow House nel 2006, mentre quello dell'anno scorso, che è entrato anche nella nostra Moontop, giusto? Moontop, sì. Vecca Times, appunto del 2009. E niente, vi faccio sentire la canzone tratta dal loro primo disco, Yellow House. La canzone si chiama On a Neck, On a Spit. Thank you. Grizzly Bear con On a Neck, On a Spit, contenuta in Yellow House, il loro primo disco. Però questi artisti, Bibio e Grizzly Bear, non sono molto rappresentativi di quello che è Warp. Sì, che si concentra soprattutto sull'elettronica. Infatti se... niente, il dub che esiste ora esiste grazie a... alla Warp comunque. Sì, sì, sì, sì. Poi comunque riescono a scovare, insomma, delle cose molto interessanti e magari anche a anticipare dei movimenti. Se, ad esempio, con Jasufi, secondo me è l'inizio di qualcosa di un po' più grande. E, sempre parlando dei Grizzly Bear, comunque ci attacchiamo alla nuova uscita di Jamie Liddell. Jamie Liddell ha fatto una cover, tra l'altro, appunto dei Grizzly Bear nella compilation Warp 20, che è appunto uscito per i 20 anni della Warp l'anno scorso. Era molto, tra l'altro, molto, molto bello il cofanetto, che si divideva in tre sezioni. Una con tutte le scelte dei fan e del cofondatore Beckett, una compilation con tutte le cover e una compilation invece con le rarità. Ah, sì, sì, molto bello il cofanetto, te lo consiglio. Pensato bene. E, Jamie Liddell, forse lo conoscete per il suo album Jim, che tra l'altro ha vinto il premio per l'Independent Music Awards come miglior album pop e rock. Jimmy Liddell è inglese, ma si è trasferito da qualche anno a Berlino. È anche il cantante e cofondatore del gruppo Super Collider. Adesso è uscito è uscito a marzo il suo nuovo album intitolato Campus, che riprende sia il soul a cui ci ha abituato Jamie Liddell, ma con un gusto anche un po' più elettronico, quindi forse un po' più warp in questo. Andiamo a sentire The Ring. Always thought she'd stick around, always thought she'd stay. Now he's searching for the ring, but what you have to do? Fate's come and cast a shadow, no one gets his pay. Never thought to cut it since his love over this day. Just a dreamer, and she was just a dream. Era Jamie Liddell con The Ring, che lo trovate sul suo nuovo album che si chiama Compass, che dovrebbe uscire tra pochissimo. E sempre parlando della compilation Warp 20, un altro artista che ha fatto una cover molto bella di Jimmy Tanor è il giovanissimo Hanson Mohawk, oppure Ross Burchard, che è un DJ e produttore di musica elettronica da Glasgow, che ha affiliato tra l'altro con la Lucky Me Collective, che è stato ha iniziato insomma a uscire con dei dischi per la Warp l'anno scorso, quindi nel 2009. Ha iniziato da una giovanissima età, più o meno dai 15 anni, ha iniziato a fare DJ e poi è passato alla radio dell'Università di Glasgow, e poi in seguito ha conosciuto Rusty e ha iniziato insomma a diventare abbastanza conosciuto nella scena underground. E infatti forse lo conoscete per la cover di Oops, che è una vecchia canzone hip hop. No, non l'ho mai sentita. Sulla masturbazione. Ah. E niente, andiamo a sentire il suo nuovo singolo, che è contenuto nell'album Butter, che è appunto uscito per la Warp Records l'anno scorso. Si chiama Joy Fantastic e vede la collaborazione con Oliver Daisol. Era Joy Fantastic con Oliver Daisol, Hudson Mohawk. E invece celebri per la Warp sono la serie di album usciti negli anni 90 che si chiamavano Artificial Intelligence, e appunto erano questa serie di album, se non mi sbaglio 8, vabbè dopo li contiamo bene. Insomma, pubblicati tutti per la Warp all'inizio degli anni 90 per mettere in mostra le capacità e i suoni della musica elettronica, che fino ad allora erano stati abbastanza... ignorati. Sì, molto. E questa serie comprende anche gruppi e singoli compositori che successivamente negli anni diventarono proprio i leader dell'elettronica, della techno e anche dell'ambient, tipo gli Orb, Aphex Twin, gli Autechre. E questa serie di dischi è anche considerata un grande contributo per l'IDM. Noi ci ascoltiamo una canzone degli Autechre contenuta nella primissima serie, proprio nella prima compilation, che è del 1992. Ci ascoltiamo Crystal. E quindi questo era Autechre con la canzone Crystal, e ricordiamo che questa canzone è contenuta nel primo album della serie Artificial Intelligence, pubblicata dalla Warp negli anni 90. Ed erano 8. Sì, confermiamo che erano 8, tra l'altro tutti pubblicati dal 92 al 94 in soli 2 anni, tra cui c'è anche la pietra miliare dell'elettronica, il disco degli Autechre Incunambula. E legandoci quindi al lato più elettronico della Warp, passiamo a parlare di Harmonic 313, che è il progetto solista di Mark dei Harmonic 33, che è un progetto che appunto lui ha avuto con Dave Brinkworth, che si concentrava però più sull'hip hop stile Detroit. Harmonic 313 è appunto Mike Pritchard, eclettico musicista elettronico già attivo dagli anni 90, e che è uscito con il riuscitissimo disco Techno Ambient assieme a Tom Middleton. L'album in questione era chiamato 7614, a nome della Global Communication, il quale potrebbe essere tranquillamente collocato vicino ai contemporanei lavori appunto di Aphex Twin e di Autechre. Tra i vari progetti, Pritchard si era recentemente cimentato componendo hip hop, trip hop e pezzi più sperimentali con appunto Harmonic 33. Tutte queste esperienze sono state molto importanti poi per il progetto Harmonic 313, che si lega più che altro a, diciamo, all'elettronica un po' dei Kraftwerk. Infatti andiamo a sentire dall'album When Machines Exceed Human Intelligence, No Way Out, che secondo me è molto Kraftwerkiano. Sentiamo. We'll be right back. E questo quindi era Harmonic 313 con No Way Out, un pezzo possiamo dire kraftwerkiano. Sì, dai, ci starebbe bene in Trans Europe Express. Sì, infatti. No? Sì, sì. E sai cosa? Questo finale mi ha abbastanza ispirata, cioè questo finale un po' retro di questo, ah, di sì? questo pezzo. Okay, infatti, volevo. Ti rubo il posto, okay. E faccio sentire una canzone di Vincent Gallo. Ricordiamo che anche Vincent Gallo è un artista warp. Il suo primo disco, When, è uscito infatti nel 2001. E è un disco quasi tutto strumentale, a tratti prog, anche un po' jazz. L'hai sentito tu, When? No. A me piace molto, molto, molto. Ti faccio sentire appunto una canzone tratta da questo disco, se non mi sbaglio la traccia numero 6, Laura. Laura, Laura, Laura, Laura, find a place, a happy place. We can find Chiara, sei sveglia? Quasi. Beh, questo era Vincent Gallo con la canzone, hai capito il titolo? Laura. Esatto, il disco è When e Vincent Gallo praticamente l'ha scritto, suonato e prodotto, fa tutto lui. E io, per non tornare subito all'elettronica perché mi sembra un po' fuori luogo, passo ai Pivot, che tra l'altro sono tre ragazzi di Sydney che ho sentito live appunto a Sydney, che vivono però adesso a Londra. Si sono formati nel 99 dai fratelli Richard Pike e Lawrence Pike, e all'inizio erano una band composta da 5 membri, quindi loro due più altri 3 musicisti. Hanno registrato il loro album di debutto, che si chiama Make Me Love You, nel 2005, quindi hanno passato 5 anni a comporre il loro primo disco, che è stato appunto recensito molto bene, accolto molto bene. Poi in seguito hanno collaborato con David Miller, che poi è diventato parte integrante del gruppo, e sono diventati una band di soli tre componenti. E nel 2008 hanno registrato per la Warp. Hanno registrato un EP che si chiama In the Blood e poi l'album O Soundtrack My Heart, che li ha visti diventare molto famosi a livello proprio internazionale, quindi non solo in Australia e nella dove? In Inghilterra. Ok. Oddio. E quindi sono andati in tour per il mondo. Tra l'altro sono comparsi nell'edizione del 2008 del Meltdown, di cui magari faremo una puntata. Quando è che si svolge il festival? Non mi ricordo, mi sembra a luglio. Okay. A Londra. Poi sono andati anche a Glastonbury e nel 2009 hanno preso parte al Luminous Festival, che è un festival organizzato alla Sydney Opera House da Brian Eno. Andiamo a sentire uno dei pezzi più famosi, il pezzo è omonimo del disco O Soundtrack My Heart. Thank you. E quindi questi erano i Pivot con O Soundtrack My Heart, un pezzo che anche live riescono a rendere così a bene. A rendere molto bene. Non sì, li ho sì. mai visti loro. E invece, prima di concludere la puntata, mi sa che ormai siamo quasi sì. giunti alla fine, parliamo di un'altra band storica in casa Warp, ovvero i Broadcast. Ti piacciono i Broadcast? Sì, ne abbiamo anche già parlato. Forse? Forse una volta. Forse no, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. E, sono i Broadcast, spesso sono una band inglese, spesso accostata agli Stereolab per la patina un po' retro futurista che accomuna i loro suoni. E hanno rilasciato per Warp 3 album, qualche EP e qualche singolo. E proprio l'anno scorso, nell'ottobre 2009, hanno collaborato per un mini album con si chiamano Focus Group e sono dei graphic designer che fanno anche musica. È uscito quindi questo un mini disco chiamato Broadcast and Focus Group Investigate Witch Cults of the Radio Age. Chiarissimo? Sì. Quindi da questo andiamo... Non ce l'ascoltiamo da questo, da questo mini album, andiamo ad ascoltarci una canzone contenuta nel loro secondo disco che si chiama Haha Sound, che tra l'altro è stato stroncato dalla... si chiama proprio Haha Sound, che è stato però abbastanza stroncato dalla critica, però secondo me ha delle belle canzoni, cioè non capisco perché l'abbiano stroncato così duramente. Ok. E ci ascoltiamo Winter Now. Broadcast con Winter Now, contenuta nel disco A Sound. Sì, questa canzone mi ricorda un po' i Paper Cuts. Beh sì, loro, anche i Broadcast, sono molto dreamy. Mm. Sì. Ci piacciono. E quindi in chiusura mettiamo invece un pezzo che, insomma, non so se è rappresentativo proprio della Warp, però magari ci fa riprendere un po' dai broadcast. E quindi parliamo di DJ Mujava, che è un DJ sudafricano, South African, che si chiama Elvis Mazwanyi, non so se l'ho pronunciato bene, che appunto è uscito con Township Funk, questa canzone, nel settembre del 2008 per la Warp, che è stato molto lanciato dal programma di Jazz Peterson Worldwide, e quindi niente, è diventato, insomma, un pezzo molto ascoltato. Ricordiamo che se volete potete scriverci a Gmail, quindi moontalkradio@gmail.com, e per le puntate, per riascoltare, per imparare a memoria le vecchie, esatto, puntate e vedere la scaletta, potete andare sul blog, quindi www.moontalkradio.blogspot.com. Vi lasciamo con con chi? Sì, sì, sì. DJ Mujava. Stavo pensando alla prossima settimana. Ah, la prossima settimana tocca a te. Io pensavo Girls Group anni 60. Ok. Dai, un po' sì, allegro. Sì, sì, sì, sì. Va bene. Ciao.